Italia in controluce, la politica nel tunnel. Italia in controluce, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e dalla postazione di Radio 24 di Montecitorio. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Da Montecitorio andiamo subito al Quirinale, dove, come di consueto, Enrico Letta, PD, ha accettato l'incarico di formare il nuovo governo che lui ha chiamato un governo di servizio per il Paese, come di consueto, perché Enrico Letta ha accettato con riserva, vuol dire che ancora non ha pronta la lista dei ministri. Ma che ne pensate di questo governo di servizio per il Paese? Vi ricordiamo i nostri sms al 349-238-6666. Intanto sentiamo il Premier incaricato. Ma ovviamente nelle consultazioni di domani discuteremo con tutte le forze politiche, col PDL in primis naturalmente, cercheremo di trovare le soluzioni. Questo governo non nascerà a tutti i costi, questo è chiaro. Questo è un governo che nascerà se ci saranno le condizioni. Io ce la metterò tutta perché penso che ci sia bisogno oggi di dare una risposta ai tanti italiani che non ne possono più dei giochi e dei giochetti della politica e che vogliono risposte ai problemi. E io mi metto oggi di fronte a loro e ripeto con grande umiltà, con grande senso dei miei limiti, ma anche con una determinazione fortissima a dare seguito a questa grandissima responsabilità che mi onora, che il Presidente della Repubblica ha voluto affidare. Queste le parole del Premier incaricato Enrico Letta. Abbiamo sentito, Letta ha detto è questo un governo che non nascerà a tutti i costi, ha dato anche una notizia: domani Letta incontrerà le forze parlamentari per un primo giro di consultazioni. E subito un ascoltatore ci chiede perché consultazioni di Letta non pubbliche, ma probabilmente innanzitutto si è visto che poi le consultazioni in streaming lasciano i politici ingessati e poi l'accordo resta lontano, quindi evidentemente anche lo streaming, Elisabetta, chissà, un giorno potrebbe passare di moda o no? Non lo so, anche perché Roberta Lombardi sappiamo che disse a Bersani sembra una puntata di Ballarò, poi però quando Grillo ha dovuto riunire i suoi l'ha fatto in un casale di campagna, perché poi quando si deve parlare un po' di politica forse una riservatezza, tanto poi Letta arriverà su al Quirinale come ha già detto e scioglierà la riserva e presenterà la lista dei ministri probabilmente già forse domani ci sono le consultazioni qui alla Camera, Vincenzo, quindi vediamo come va a finire. Certo, e poi tra l'altro tutto ciò che di ufficiale Letta vorrà dire al Paese lo dirà nei discorsi parlamentari che farà qui alla Camera e al Senato, dove chiederà la fiducia. Ma ricordiamo i fatti di questa mattina: la telefonata del Quirinale a Letta, Letta che sale al Colle alle 12.30, Letta addirittura è arrivato a bordo della sua auto privata, 46 anni, è il più giovane premier incaricato in Europa. Giorgio Napolitano ha dunque scelto, optando per il vice segretario del Partito Democratico, che nelle riflessioni del capo dello Stato ha superato in nottata il favorito Giuliano Amato. Su Amato avrebbero pesato i tanti veti incrociati, la Lega, ma anche tanti malumori all'interno dello stesso Partito Democratico. Ma sentiamo da Letta il programma del nuovo governo, economia, le priorità dell'economia tra tutte. Con grande determinazione mi metto in questo impegno perché penso che il Paese abbia bisogno di risposte. Penso soprattutto che abbia bisogno di risposte quella parte del Paese che soffre, quella parte che ha oggi la difficoltà maggiore sul terreno del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro che si è perso, le imprese che chiudono, le piccole e medie imprese italiane, il cuore del nostro sistema produttivo, il senso della povertà che cresce, i giovani che vanno via dall'Italia perché non trovano occasione nel nostro Paese. Il primo importante impegno è quello di dare risposta soprattutto a questa emergenza che è diventata un'emergenza enorme e insopportabile. E il secondo tema è naturalmente il tema di come dare risposte attraverso una politica che sia nuovamente credibile. La politica ha perso tutta la sua credibilità, lo si è visto in questi mesi e lo si è visto dalla risposta dell'elettorato, dalla risposta popolare. O si ritrova credibilità tutti e tutti insieme, oppure non c'è possibilità di avere strumenti che siano in grado effettivamente di risolvere i problemi. E ricordiamo Enrico Letta, 46 anni, ma lunga esperienza politica e poi soprattutto un ponte per il PDL, visto che lo zio è Gianni Letta, che è il braccio destro di Silvio Berlusconi. Infatti alcuni radioascoltatori dicevano: ah, andranno a braccetto zio e nipote. Invece, per esempio, Roberto dice: da elettore del PDL dico che Letta mi piace e mi infonde fiducia. Mentre che vergogna, dice Gabriella, ormai fanno tutto e scelgono loro, mi colla da Bari, senza considerare il popolo. Quindi i nostri radioascoltatori sono sempre un po' divisi. Guido da Bergamo dice: Napolitano ha dimostrato ancora saggezza. E comunque ricordiamo che il PDL ha già avvertito Enrico Letta, Vincenzo, perché Angelino Alfano ha detto: non si deve ripetere un caso Marini, cioè o ci state o non ci state. C'è da dire però che il voto di fiducia è un voto palese, perché il deputato o il senatore deve passare davanti allo scranno di Montecitorio, di Palazzo Madama, e deve dire sì o no, e poi viene detto sì o no. Quindi no franchi tiratori. No franchi tiratori questa volta, quindi insomma il PDL può stare un attimo più tranquillo. Ma Vincenzo, che cosa ti è parso di Giorgio Napolitano, del nostro capo dello Stato? Finalmente un po' più sollevato? Sì, finalmente più sollevato, ha spiegato le ragioni della scelta di Enrico Letta, ha detto non c'erano alternative ad Enrico Letta, evidentemente quindi i veti incrociati di cui parlavamo prima, Elisabetta, hanno pesato sul nome di Giuliano Amato. Napolitano lunedì qui a Montecitorio, nel suo intervento di giuramento, aveva ricordato alle forze politiche: non siete stati in grado di eleggere il nuovo capo dello Stato, adesso di fatto deciderò io per voi, assumo questo nuovo incarico proprio per arrivare ad un nuovo governo. Ma sentiamo allora il primo passaggio, le parole di Giorgio Napolitano. Non sono state poste pregiudiziali circa il nome della persona a cui dare l'incarico, è stata data a me la più assoluta libertà e autonomia, come è d'altronde nella nostra prassi costituzionale, per l'affidamento dell'incarico. Sono stati anche espressi apertamente apprezzamenti per la persona dell'onorevole Enrico Letta e la mia scelta è caduta su di lui, tenendo conto del fatto che, pur appartenendo egli a una generazione giovane, anche secondo i precedenti e gli standard italiani molto giovani, ha già accumulato importanti esperienze nell'attività parlamentare, a contatto con le nuove leve delle ultime legislature, nell'attività di governo, nel campo culturale. Voglio ricordare l'associazione di cultura politica molto significativa che l'onorevole Letta ha guidato in questi anni e che fu fondata dal nostro grande amico scomparso Nino Andreatta, e infine è stato molto presente anche in numerosi fori europei e internazionali. Le parole dunque di Giorgio Napolitano nel tracciare un ritratto di Enrico Letta, un politico giovane, ma abbiamo ascoltato, lo stesso Napolitano ha riconosciuto la carriera, i tanti incarichi che Letta ha avuto in questi anni. Brevemente alcuni messaggi: è un governo questo che durerà 2 mesi, poi si andrà alle urne, vincerà il Cavaliere, un governo di servizio a Berlusconi, scrive Antonio. Un altro ascoltatore ci scrive: ma Grillo è il primo partito in Italia, nel governo c'è o no? C'è o no il Movimento 5 Stelle? No, il governo, non il Movimento 5 Stelle non vuole entrare nel governo. Noi da cittadini auspicheremo invece che il Movimento 5 Stelle entrasse nel governo come tutti i partiti, perché finalmente allora veramente si andrebbe spediti verso quelle riforme istituzionali e verso il taglio dei costi della politica che tutti quanti noi chiediamo come cittadini, anche perché vediamo degli SMS che ci attaccano dicendo che noi attacchiamo il Movimento 5 Stelle. No, noi vorremmo un governo di tutti i cittadini, in modo tale di fare queste riforme. Siamo cittadini anche noi, no? Giusto Vincenzo? Assolutamente così. Allora ricordiamo, Enrico Letta scioglierà la riserva probabilmente domani e qui ci sono le consultazioni. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.